La pulpeta del re. Recipe. Un'olivetta. Che al poste l'os la gabbia un trifulin. In vultià in dofet de carna de cavret. Medde in stu pulpetin in d'un urtulanin. Medde in l'urtulanin in d'un urdin. Met quest in del panchin d'una quaieta. E la quaieta in d'una perniseta. E la pernis in d'un fasan durà. Che in del champagne prima el deves lava. Stu fasan mette il dente in d'un capun. Stu capun mette il dente in d'un pulin. Stu pulin mette il dente in d'un ucun. E stu ucun mette il dente in d'un purcell. Poi mette il dente il purcell in d'un videl. E stu videl mette il dente in d'un bö. E liga su tu scos con terra met. Dopo, fa cose. Carottul, vers, fasö, ai, shigur, rosmarin, viedrap, ravet, bacian, seller, tubate, servium e pon de terra in d'una gran caldera, cun dent 1000 liter de barbera. Met la caldera sur un gran fugum e bute quan la bui, di peverum, del tin, della canela, tantu sa, e 100 chili de succher raffinà, e peu, tran dentre il bö, liga ben ben, e lasse il cheus un 2 desura almen. Quan sarà sugà su el barberun, travia senza paura tutta la tua verdura, e dopo bö, videl, purcell, ucun, pulin, capun, fasan, pernis, e quaia, e durde urtulan, e serv caldo fumante, e il nisciurin, che sarani do fedde carna de cavret, cun denter l'uliveta, cun den la trifuleta. Questa è la ricetta della regal pulpeta. La regal polpetta di Ferdinando Fontana, interpretata qui per noi dalla voce di Marco Balbi, ed è una ricetta complicatissima in dialetto milanese. Chiediamo qualcosa di più a Emilio Russo, che è drammaturgo e regista dello spettacolo Il Nost Milan, concerto teatrale per una città, per la direzione musicale di Massimo Latronico, e sono tutti qui con noi, anche i musicisti. A tutti voi intanto benvenuti a Piazza Verdi. Allora, Emilio Russo, di come si fa questa polpetta regale? Beh, questo non lo so. Invece so perché ci è venuto in mente di fare questo spettacolo, quali sono state la suggestione e l'idea. Praticamente è la voglia di guardare Milano, la Milano di ieri, come appunto la polpetta di Federico Fontana. Che la Milano di un passato più o meno prossimo, quella cantata e raccontata dai nostri musicisti, scrittori e poeti, ma soprattutto che la Milano di oggi, quella Milano dove nell'aria si ascoltano nuovi suoni, dove si sentono che nuove lingue, si respirano ritmi diversi, nuove storie, si intrecciano nuovi rapporti tra le persone e dove ci sono anche dei nuovi embrioni di creatività condivisa e comune. Nel nostro spettacolo, Il Nost Milan, ad esempio, la voce araba di Aziz si accompagna con le note di Aziz, appunto, dell'orchestra di Via Padova, si accompagna con le note del ragazzo della Vergluck di Celentano, oppure la voce ucraina di Tatiana in coro per Enzo Iannacci, per Giorgio Gaber, per Mamì di Fiorenzo Carpi. Quindi, Emilio Russo, la polpetta che voi avete costruito è fatta di tantissimi ingredienti che vengono soprattutto dalla canzone d'autore italiana dagli anni 60 in poi. Sì, non solo, perché che vengono anche da storie, da racconti, ma la contaminazione avviene anche al contrario. Avviene appunto queste nuove storie, questi nuovi suoni, queste nuove musiche interpretate e con la sensibilità e con la vocalità invece dei nostri attori e dei nostri cantanti. Tutto questo può sembrare disordinato e forse anche un po' presuntuoso, ma è condito che in effetti con una grande dose di leggerezza e con e con grande divertimento da parte di tutti e con commozione. E questo perché c'è in scena questi formidabili musicisti dell'orchestra di Via Padova, sono 20 musicisti di 9 nazionalità diverse, ci sono 6 attori straordinari, anche loro, da Lucia Vasini a Marco Balbi, Francesca Gemma, Francesca Debri, Fabio Zulli e Roberta Di Stefano, che sono anche impegnati qua sia in prove di attore che come cantante. Allora, diceva Emilio Russo, ci sono delle zone di Milano, ma comunque Milano è una città in espansione da questo punto di vista, e ci auguriamo che continui a esserlo sempre di più, in cui si concentrano queste mescolanze. Una di queste zone è proprio Via Padova, molto famosa anche per il fatto che dal 2006 è nata l'orchestra di Via Padova. Dunque la parola a Massimo Latronico, che è il direttore dell'orchestra di Via Padova. Come vanno le cose, di quali elementi si compone questa orchestra? Beh, gli elementi sono molto vari, come avrete modo di ascoltare oggi, e soprattutto in teatro, perché oggi siamo in una formazione un po' ridotta, visto che non ci stavamo tutti quanti. E siete comunque tantissimi. Siamo attualmente in 19, sì. Sì, è un po' una scelta controtendenza, ormai si tende a rimpicciolire i gruppi, a fare trip. Per ragioni economiche, naturalmente. Noi abbiamo voluto portare avanti questo tipo di progettualità sia culturale che musicale, perché la ricchezza sta appunto nella diversità dei suoni, ma anche dei dialetti. Prima abbiamo sentito la Regalpulpetta in dialetto milanese, citata da Marco Balbi, e anche noi abbiamo molti dialetti di riferimento, non soltanto le lingue, ma anche suoni o stilemi musicali che fanno parte delle culture di appartenenza dei vari musicisti, ecco. Allora, adesso noi continuiamo ad ascoltare parte di questo progetto, perché abbiamo l'interpretazione di Lucia Vasini, abbiamo sentita prima citare come facente parte di questo concerto teatrale per una città, del testo di Pierpaolo Pasolini, Alì dagli occhi azzurri. Essi che ebbero occhi solo per implorare, essi che vissero come assassini sottoterra, essi che vissero come banditi in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo, essi che si costruirono leggi fuori dalla legge, essi che si adattarono a un mondo sotto il mondo, essi che credettero in un Dio servo di Dio, essi che cantavano ai massacri dei re, essi che ballavano alle guerre borghesi, essi che pregavano alle lotte operaie, essi sempre deboli, essi sempre umili, essi sempre colpevoli, Thank you. E sono 20 i musicisti di cui si compone questa orchestra, l'orchestra di Via Padova, poi ci sono 20 attori che intervengono in questo spettacolo, 6 attori, scusate, che intervengono in questo spettacolo e le nazionalità presenti circa 9. Dunque, tantissimi numeri, abbiamo dato tanti numeri, ma vogliamo soprattutto continuare a parlare di questo progetto con Emilio Russo. Come si fa, Emilio Russo? Ma lo chiedo anche a Massimo Latronico se vuole intervenire a raccogliere i suoni della realtà. Oggi stiamo parlando di realtà e stiamo cercando di capire i confini, spesso labili tra realtà e finzione. In che modo musicalmente e teatralmente si prende dalla realtà e si porta sul palco? Ma è che una domanda piuttosto difficile, però sicuramente bisogna guardare alla Milano di oggi, che non è che la Milano di ieri, che è una Milano piena di. Basta pensare che il 20%, più del 20% degli studenti delle scuole delle province di Milano sono stranieri o vengono da paesi stranieri. Quindi bisogna guardare una Milano che cambia, una città che cambia, mantenendo che però sempre la rotta ferma su quello che è stata anche la Milano del passato, che è una Milano che è stata all'avanguardia dell'arte, della musica, del teatro, una Milano ricca di luoghi di eccellenza, che a mio avviso noi dobbiamo anche far partecipare i nostri concittadini che vengono da lontano. Perché è solamente attraverso l'unione, la contaminazione, cioè la ricchezza che possono portare in diverse storie, diverse lingue, diversi suoni, come nel caso dell'orchestra di Via Padova, che forse riusciremo a costruire una sensibilità diversa che poi ci accompagnerà anche sul piano della tolleranza, della solidarietà. Quindi a me in questo caso mi interessa molto di più l'incontro tra le creatività diverse. Perché credo che si debba parlare molto di questo. Quante sono, Emilio Russo, le donne presenti nell'orchestra di Via Padova? La quota rosa, non lo Sì, so, devo anche dire. No, rispondo io. Quando. Purtroppo ne Massimo abbiamo poche, ma Latronico. molto, molto brave e molto belle. Lo chiedo Ne perché. abbiamo uno, due, tre, quattro. Ok, no, ve lo chiedevo perché siccome domani è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, allora stiamo cercando di parlare di donne anche in questo senso, magari proprio la presenza di Lucia Vasini ci può aiutare a spendere qualche parola rispetto alla manifestazione di domani, se vuole intervenire, visto che è ancora qui in studio con noi. Abbiamo sentita intanto prima con il testo di Pierpaolo Pasolini. Impegnate noi attrici, Che cosa siamo in tanti. succederà? Nel senso succederà che cercheremo di coinvolgere in maniera diversa anche gli uomini. Quindi se ci sono dei testimoni, uomini che di solito si vergognano, cioè non arrivano mai in queste manifestazioni, no? Quando ci sono, si vergognano, si mettono da parte. Noi faremo questo spettacolo domani sera al Teatro della Cooperativa con Livia Grossi, eccetera. Però non mi sembrava la sede di parlare di questo. Cioè, non Beh, so. abbiamo approfittato della sua presenza anche per dirlo, visto che Ah comunque il sì? tema è Sì. No, assolutamente nel senso legato che ci sarà alla comunità. Gaetano Liguori come maschio e sarà interpellato e anche diversi uomini potranno intervenire. Cioè, sono proprio invitati gli uomini. Sono molte testimonianze e insomma, siccome la situazione è veramente tragica. In quest'ultimo mese sono state fatte un sacco di violenze, purtroppo domestiche, e stanno aumentando. E quindi abbiamo bisogno degli uomini E che ci abbiamo bisogno aiutino, quelli anche, sensibili. certo, abbiamo bisogno anche di uomini sensibili alla musica che vogliono continuare ad ascoltare l'orchestra di Via Padova. Allora, intanto volevo fare i nomi degli uomini presenti, dei musicisti che sono qui in studio con noi e che non abbiamo ancora salutato, oltre a Emilio Russo e Massimo Latronico e Lucia Vasini, anche Francesca Gemma, Marco Balbi, Francesca Sabatino, Aziz Riachi, Andrea Migliarini, Marco Roverato, Andon Manusci, Walter Parisi, Massimo Latronico, appunto, Yamil Castillo Otero e Alfredo Muñoz. A tutti voi, intanto, grazie per aver partecipato a Piazza Verdi. Ci salutiamo con che cosa? E lo chiedo a Emilio Russo. Beh sì, concludiamo con un pezzo della tradizione dell'Est che c'è Vona Ruta, che è un pezzo dell'orchestra di Via Padova, che cantata da Francesca, e poi con una versione funky del Ragazzo della Via Gluck. Allora, forse non abbiamo però ancora detto che l'orchestra di Via Padova sarà in concerto al TF Teatro Menotti qui a Milano dal 27 novembre al 6 dicembre. It's nice in me. Sick if they bet it's hardy. Yeah, but they bet in me. Pull on your pechali. Move it down so lisa. Yes, I see. Diceva mentre piangeva, io gli domandavo.